Focus Economia. Con Deborah Rosciani. E buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Era veramente da un bel po' di tempo che non mi trovavo davanti a questo microfono a quest'ora per la conduzione di Focus Economia. Vabbè, ogni tanto anche i conduttori tradizionali si prendono qualche giorno di vacanza e tocca anche al sostituto ufficiale di Sebastiano Barisoni, che è Simone Spezia. Io li saluto entrambi e questa sera indegnamente li sostituisco a Focus Economia, in una giornata peraltro anche un po' complessa e però molto interessante da raccontare, perché mi tocca appunto farvi un po' il punto della situazione economico-finanziaria rispetto al risultato elettorale francese nel primo turno per le presidenziali, appunto transalpine, che vi abbiamo raccontato in lungo e in largo in tutte le implicazioni politiche, ma naturalmente adesso è tempo anche di raccontarvi cosa sta facendo il mercato finanziario internazionale rispetto a questo risultato, a questo ballottaggio decretato ieri sera appunto dalle urne francesi. Al ballottaggio del 7 maggio vanno Emmanuel Macron e Marine Le Pen, lo sapete, con quali percentuali, anche quasi al 24% Macron, quasi al 22% Marine Le Pen. Sono i duellanti dunque del secondo turno delle presidenziali francesi. Sondaggi rispettati, anche se con molta confusione ieri sera al Ministero dell'Interno, per chi ha seguito lo spoglio, naturalmente dato in diretta da molti speciali televisivi durante la conta dei voti. Addirittura verso le 23 si dava in vantaggio la leader dell'estrema destra grazie allo scrutinio più rapido nei piccoli comuni, ma di fatto sappiamo poi quello che è successo. Adesso è partito il conto alla rovescia e fra 2 settimane sapremo se verranno rispettati anche i sondaggi del ballottaggio, secondo i quali l'ex ministro dell'economia dovrebbe vincere largamente. Ma direi che a questo punto tutto l'entusiasmo che si è registrato in questa giornata, che si è letteralmente scatenato in borsa, lo fermerei qua, perché poi lo scorso anno, come sapete, in 2 grandi appuntamenti ci siamo svegliati con una situazione radicalmente diversa rispetto a quella con la quale eravamo andati a dormire, per cui aspetterei appunto di vedere fra 2 settimane che cosa succede, ma avremo modo appunto di commentare tutto questo con i nostri ospiti nella trasmissione di questa sera. Fra un po' ci collegheremo con un economista che ci farà un punto anche sui 2 programmi economici a confronto dei 2 candidati a questo punto all'elezione francese. Faremo un punto anche sull'entusiasmo dei mercati finanziari. Gli spread sono violentemente scesi e questa è mediamente una buona notizia. Pensate che quello fra l'OAT francese, il titolo di Stato francese, e il Bund tedesco è scivolato sotto i 50 punti base, c'è stato un calo percentuale del 21% rispetto alla chiusura di venerdì. Questo differenziale proprio pochi giorni fa aveva ritoccato i 100 punti base e ci aveva dato dimostrazione di come gli investitori fossero molto preoccupati per questo primo turno elettorale francese, scappavano dall'obbligazionario appunto transalpino per rifugiarsi nel titolo di Stato tedesco, come sempre accade in momenti di grande incertezza. Oggi ci hanno ripensato e si sono riposizionati molto rapidamente, non solo sui titoli di Stato francesi ma anche sulla borsa. Paradossalmente la migliore è Milano, sta guadagnando 4,5 punti e pensate che c'è anche lo stacco del dividendo di 7 grandi società. È una situazione che pesa per circa 0,5 punto percentuale sull'andamento del listino, per cui complessivamente Milano sarebbe addirittura in rialzo di oltre 5 punti percentuali e scavalca anche la stessa piazza francese, che è comunque in rialzo di 4 punti. Sono un po' più tranquille le altre piazze: Francoforte più 3,35, Londra più 2 punti percentuali. Vistosissimo anche il movimento sul mercato valutario, l'euro si è rafforzato su tutte le altre divise ieri sera, addirittura in concomitanza con la apertura dei mercati asiatici, aveva toccato sul dollaro 1,09, poi oggi ha ritracciato leggermente ma è a 1,0865. Avremo modo di commentare con un esperto di mercati anche tutto questo e poi faremo un punto dettagliato come sempre anche su Piazza Affari, perché qua volano le banche, dobbiamo cercare di capire perché Unicredit guadagna 12,5 punti, UbiBanca più 10% e tutto merito appunto delle elezioni francesi. Non lo sappiamo, lo capiremo oggi come solito con il collegamento con i nostri colleghi di Radio Coro, Il Sole 24 Ore, che tutti i giorni interpellano i professionisti dei mercati finanziari, quindi vanno a caccia di notizie e dettagli rispetto a questi movimenti. Poi naturalmente parleremo anche delle altre notizie che riguardano la nostra economia. La giornata delicatissima e caldissima di Alitalia si è chiuso, anche in questo caso avevamo una sorta di tornata elettorale, ma un po' più preoccupante perché qua c'è il destino di molti lavoratori. L'accordo fra azienda appunto e sindacati e governo rispetto a questa ristrutturazione massiccia di cui il gruppo ha di nuovo bisogno per l'ennesima volta nella sua storia. Vedremo nelle prossime ore che cosa hanno deciso i lavoratori, che anche in questo caso sono andati a votare in massa appunto per dire la loro su questa delicatissima consultazione. Peraltro ci sono state già negli ultimi giorni molte dichiarazioni preoccupate da parte di diversi esponenti del governo che hanno detto la nostra ultima è l'ultima chance per questa compagnia. Lo stesso ministro Delrio ha detto dovete decidere per l'Intesa, perché insomma nazionalizzare è proprio praticamente una strada impossibile. Infine, la manovrina di primavera è stata firmata oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si scongiurano quindi le clausole di salvaguardia. Gli aumenti IVA previsti per il prossimo anno vengono congelati, sterilizzati, nel senso che ci saranno ma con una gradualità diversa rispetto a quella più drastica che era prevista inizialmente. E un altro tema anche un po' delicato e complicato che commenteremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Questo è un po' il punto dei temi di giornata, ma naturalmente sarà quasi anche in questo caso monotematica la nostra trasmissione, perché è inevitabile parlare di quanto accaduto in Francia nelle ultime ore, e dovremo anche in questo caso ancora una volta riguardare la nostra sfera di cristallo per provare a capire a questo punto come si prepareranno i due candidati all'attacco finale del 7 maggio. Prima di tutto questo però, come sempre, anche tante notizie in breve. Anche oggi tante notizie interessanti che arrivano anche dagli Stati Uniti. Stati Uniti che vedono ricomparire lo spettro della paralisi federale. Che cosa vuol dire? Lo shutdown, praticamente la paralisi dell'attività di governo per mancanza di fondi. È un rischio grosso che sta correndo in queste ore Donald Trump, perché se non si trovano accordi in Congresso sul provvedimento per finanziare le attività di governo, proprio alla mezzanotte tra venerdì e sabato scatta il cosiddetto shutdown. Secondo fonti della Casa Bianca e di Capitol Hill, fonti che sono state interpellate dal Wall Street Journal, a complicare tutte le trattative che sono già particolarmente frenetiche sembra essere il fatto che Donald Trump vorrebbe includere in qualunque accordo anche i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico, cosa che, lo sapete, non piace ai democratici ma neppure ad una parte dei repubblicani, che già in altre circostanze gli hanno fatto mancare l'appoggio necessario per portare avanti le sue iniziative. Il presidente americano, che peraltro proprio sabato arriva al suo 100° giorno di presidenza, potrebbe dover scendere a patti con i suoi avversari, visto che i voti repubblicani non sono da soli sufficienti per l'approvazione di un accordo. Un altro nodo difficile da sciogliere, lo ricordiamo bene, è anche quello della riforma della sanità, visto che Trump fa pressione affinché si trovi un'intesa per l'abrogazione dell'Obamacare dopo la sconfitta del mese scorso su questo tema, determinata proprio dal fatto che i suoi gli hanno fatto mancare l'appoggio. Le politiche di protezionismo del presidente degli Stati Uniti, Trump, qualche timore lo creano anche per i nostri vini mastroianni, che nel mercato americano hanno un terzo delle vendite. Stiamo cercando soluzioni alternative per il caffè e il cioccolato, stiamo valutando anche una produzione in loco. Lo ha detto in un'intervista all'agenzia ANSA Riccardo Illy, il presidente del gruppo Illy e viticoltore a Montalcino. Ma i muri, ha osservato l'imprenditore triestino, non fanno bene neanche a Trump, e quindi insomma su questa sua indicazione oggi ha espresso comunque la sua preoccupazione per quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Tra l'altro sarà una settimana da osservare con grande attenzione a Wall Street, perché sarà particolarmente intensa dal punto di vista delle nuove quotazioni, un test importante per valutare l'interesse degli investitori per le società a rapida crescita. Molte start-up che questa settimana debuttano sul mercato americano. Un punto della situazione l'ha fatto il Financial Times, ricordando che da qui a venerdì debuttano ben 8 società, il numero più alto dall'ottobre del 2016, superiore alla media settimanale di 3 quotazioni, che è praticamente la media che c'è stata in tutto questo 2017. Fra le IPO di questa settimana ve ne indico qualcuna, se poi il nome di questa società vi suggerisce qualcosa. Addirittura una si chiama con un nome italiano, Verona Pharma, è già quotata a Londra. Cloudera, attiva nel settore dei big data, e insomma quindi una settimana molto intensa che probabilmente movimenterà anche in questo caso Wall Street, già oggi peraltro molto positiva sulla scia di quanto accade in tutta Europa. Peraltro non ho detto gli indici americani, il Dow Jones è in rialzo adesso dello 0,93%, lo Standard & Poor's in rialzo dello 0,90%, il Nasdaq guadagna oltre un punto. Le istituzioni della ex Troica oggi hanno fatto ritorno ad Atene per ricominciare domani le discussioni che hanno l'obiettivo di arrivare a chiudere la seconda revisione del programma di aiuti per questo paese, appunto, il prima possibile. Lo ha annunciato un portavoce della Commissione europea, sottolineando che l'avanzo dello 0,7% e il surplus primario del 4,2% certificati da Eurostat oggi per il 2016 sono in modo significativo al di sopra degli obiettivi richiesti. Quindi la Commissione ha aggiunto che valuterà attentamente le cifre nel contesto delle sue previsioni di primavera e nel rispetto della sostenibilità di medio periodo. Abbiamo detto oggi della forte caduta che ha avuto lo spread fra l'OAT francese e il Bund tedesco, ma molto forte è stata anche la discesa che ha registrato lo spread fra il nostro BTP decennale e il Bund tedesco, arrivato intorno ai 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale è al 2,2%. Questo è un tema importante, questo effetto del primo turno delle presidenziali francesi, perché noi ricordiamo che eravamo reduci da questa decisione presa nel weekend dell'agenzia di rating Fitch, che ha abbassato il giudizio sull'Italia a tripla B da tripla B più. L'outlook è rimasto comunque stabile. Tema importante anche alla luce delle aste che erano previste oggi da parte del Tesoro italiano, che comunque sono andate bene. Il Ministero dell'Economia ha venduto 2 miliardi, ha piazzato senza problemi 2 miliardi di euro di CTZ con scadenza a dicembre 2018, con un rendimento che è ancora negativo ed è stato anche nel leggero calo di un altro centesimo, meno 0,075%. Sono stati collocati anche 737 milioni di euro di BTP indicizzati all'inflazione, scadenza maggio 2022, rendimento allo 0,14%, anche in questo caso in ulteriore calo. Indicizzati sono stati collocati anche BTP indicizzati all'inflazione europea con scadenza settembre 2032 per 512 milioni e mezzo di euro, con un rendimento che è stato spuntato all'1,36%. Arriva lo stop della Cassazione ai referendum su voucher e appalti. Per accendere il semaforo rosso, l'Ufficio Centrale per i Referendum della Suprema Corte ha atteso la legge di conversione del decreto legge il 25 di quest'anno, con cui a marzo, lo ricorderete, il governo Gentiloni ha deciso di cancellare le regole sui voucher, li ha praticamente cancellati completamente dal nostro ordinamento, proprio per, ricorderete bene, sminare il cosiddetto rischio urne, il campo dal rischio urne. A questo tema sono dedicati i 100 secondi di Radio 24 che oggi portano la firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Salvatore Padula. Adesso è ufficiale, i due referendum previsti per il 28 maggio sui voucher per il lavoro accessorio e sulla responsabilità negli appalti pubblici non si faranno. Lo ha confermato oggi l'Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione, che ha preso atto della conversione del decreto legge con cui a marzo il governo ha scelto di cancellare tout court le regole al centro dei quesiti referendari, cosa che peraltro il governo aveva fatto proprio con la chiara intenzione di sminare il campo dal rischio delle urne. Dal punto di vista politico, il dietrofront sui due referendum era già scontato, visto che sia le norme sui voucher sia quelle sulla responsabilità negli appalti non sono più nell'ordinamento, ma la parola della Cassazione è necessaria anche per interrompere le procedure che sia le prefetture che i comuni avevano avviato per arrivare al voto di fine maggio. I referendum non si faranno, ma i problemi restano. Prendiamo i voucher. In qualche modo ora si dovranno trovare nuove modalità per retribuire in modo semplice e trasparente i piccoli lavori. Il governo sta immaginando alcune ipotesi, con l'introduzione di un nuovo strumento simile ai voucher destinato alle famiglie e probabilmente alle onlus, mentre le piccole imprese potranno utilizzare il lavoro a chiamata, però in modalità semplificata. L'importante è che si trovi rapidamente una soluzione, altrimenti si rischia di fornire un nuovo alibi a chi alimenta l'area del lavoro sommerso. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Oggettivamente manco da un bel pezzo alla conduzione di questo programma, perché mi avete rivisitato e corretto tutta la colonna sonora, rimasto indietro con le vecchie canzoni. Oggi mi aspettavo una Marsigliese, un Cancan, che sono le canzoni che abbiamo utilizzato noi la mattina a Cuore Denari. Invece qua rimaniamo sul tradizionale, un po' di musica leggera, insomma, per vivacizzare il punto della giornata economico-finanziaria. Allora, naturalmente, come promesso, adesso facciamo questo punto sulle implicazioni di carattere economico-finanziario del voto di ieri sera. Un voto parziale, come sapete, perché era il primo turno delle presidenziali americane. Il responso è stato chiaro: tra tutte le ipotesi che erano state fatte in questi giorni, diciamo che questo scontro che ci sarà il 7 maggio era quello che era auspicato a metà. I francesi che si sono recati alle urne, peraltro in misura nettamente superiore al previsto, spaventati anche dagli attacchi terroristici che hanno colpito drammaticamente la Francia nei mesi passati, c'è stato anche l'ultimo attacco agli Champs-Élysées proprio pochi giorni fa, hanno espresso voglia di rinnovamento e hanno determinato con le loro scelte una vera rielaborazione, ricomposizione del panorama politico francese. Per la prima volta nel 58, anche questo è un punto, è stato rimarcato moltissime volte in queste ore di commento, dalla nascita della Quinta Repubblica, due partiti storici del bipolarismo saranno assenti dal secondo turno delle presidenziali. Tra l'altro, un altro aspetto un po' folcloristico, se me lo volete far passare, che è stato così enfatizzato in queste ultime ore, è che Emmanuel Macron ha accettato di sostenere il dibattito televisivo con Le Pen il 3 maggio, quindi 4 giorni prima appunto del ballottaggio finale delle presidenziali. Perché lo sottolineiamo? Perché invece nel 2002 Jacques Chirac rifiutò di partecipare al dibattito televisivo con Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine, fondatore del Front National, arrivato appunto al ballottaggio. Detto questo, dicevamo che è un aspetto di colore che poco ci importa approfondire. Andiamo invece alle letture di carattere economico-finanziario di questo primo turno elettorale. Le prime letture sono state chiare dalla reazione euforica dei mercati finanziari, ma ci sono anche molti commenti di molti economisti. Sicuramente oggi la borsa brinda, ma in realtà qualcuno invita anche ad essere cauti, perché non si sa quello che potrà accadere il 7 maggio alla luce di quanto accaduto con Brexit e Trump. È meglio tenere un po' le bocce ferme. Terme. Buonasera ad Andrea Goldstein, Managing Director di Nomisma, un passato ventennale all'Ocse di Parigi, peraltro adesso collegato con noi proprio da Parigi. Lo volevo sottolineare perché ci fa piacere questo aspetto. Il nostro reporter Grazie. Sul campo, dottor Goldstein, buonasera. Allora, lei ha rilasciato un comunicato proprio così, qualche dichiarazione proprio oggi pomeriggio a caldo rispetto poi alla conferma dei risultati di ieri sera e dice il peggio è stato evitato, però il voto di ieri mostra una Francia divisa a metà sulle grandi questioni economiche. Lasciarsi andare ai trionfalismi sarebbe ingenuo e pericolosi. Quali sono i temi, dottor Goldstein, che inducono alla cautela? Il primo è il fatto che comunque il 48,5%, quindi praticamente un francese su due, ha votato per una delle opzioni meno europee, quindi sia Le Pen ovviamente, ma anche Jean-Luc Mélenchon e tutti i piccoli candidati di estrema destra e estrema sinistra, tutti favorevoli all'uscita dall'euro e tutti in qualche maniera comunque critici, per non dire di più, rispetto all'Europa. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è un paese fratturato dal punto di vista territoriale. Alcune zone, soprattutto quelle dove è forte l'incidenza della concorrenza internazionale che ha indebolito l'industria, hanno votato in maniera massiccia a favore dei candidati antisistema. Pensiamo semplicemente ad Amiens, che è la città natale di Macron, dove ha vinto, sì, ma dove Mélenchon e Le Pen hanno preso quasi il 45%. È la città dove qualche settimana fa la Whirlpool ha chiuso una fabbrica che andava molto bene per trasferire le sue produzioni in Polonia. Quindi la grande sfida per Macron nelle prossime due settimane sarà quella di provare a convincere questa percentuale di francesi che non lo hanno votato, naturalmente, che non sono convinti della sua formula centrista che è stata definita veramente rivoluzionaria, lo dice anche lei oggi. E questo richiede, mi è piaciuto questo passaggio che ha fatto nelle sue dichiarazioni, una grossa empatia verso questi ceti medi delle zone periurbane. Ci vorrebbe un po', come dire, un Macron un po' trumpista che sappia sfoderare un po' di populismo positivo per andare a raccogliere il consenso, mi passi il termine, l'immagine delle Detroit francesi? Sì, forse ancora meglio sarebbe un Macron sanderista, perché Trump ha la sensazione che abbia sempre giocato sulle paure dei ceti medi, di tutti coloro che hanno da perdere dalla globalizzazione. Sander questo non l'ha fatto, è un forse un precedente che andrebbe considerato, soprattutto perché comunque la storia politica di Macron è quella del centro-sinistra, per quanto lui sia un candidato centrista, in ogni caso arriva dalla sinistra al centro e quindi potrebbe imparare la lezione da Hillary Clinton, che invece non aveva imparato la lezione di Barry Sanders e quindi si è ritrovata poi alla fine dei conti a perdere le elezioni americane. Quindi l'empatia è l'elemento più importante. È ovvio che Macron rappresenta una certa Francia aperta verso il mondo, molto attenta alle nuove tecnologie, attenta all'Europa, e questo è un messaggio rassicurante che dovrebbe però cercare poi di portare anche a coloro che invece si sentono vittime della globalizzazione e dell'Europa. Certo, e quindi senta, nel caso in cui domani mattina, dottor Goldstein, lei ricevesse una telefonata e dallo staff di Macron le chiedessero appunto di diventare consigliere economico per i prossimi passaggi della vita politica appunto di Macron, che cosa deve fare per diventare quella figura politica pienamente rappresentativa di tutto l'elettorato francese, per avere un mandato pienamente rappresentativo, così lei lo definisce nelle sue dichiarazioni di oggi, che poi per altro gli possa consentire anche di fare una serena campagna elettorale in vista delle politiche di giugno, in cui si presenta con un movimento che non è giovanissimo. Tra l'altro, guardi, ieri stavo guardando i resoconti di Sky TG24 dal quartier generale appunto di Macron a Parigi, non ne ha neanche uno decente, cioè i giornalisti erano veramente un po' allo sbando, non avevano neanche dei punti d'appoggio, questo un po' tanto a testimoniare, se fosse necessario, un po' di inesperienza anche da questo punto di vista. Quindi mandato pienamente rappresentativo. E poi, secondo passaggio, il suo piano economico per la Francia, che ha molte idee per ovviamente per le imprese, per gli investimenti pubblici, per una gestione corretta della spesa pubblica francese, sul tema del lavoro e delle pensioni, anche le idee molto chiare. Il suo programma è sostenibile, realizzabile e convincente, Goldstein? Beh, è convincente, sì, nella misura in cui le ipotesi di partenza sono estremamente realiste, quindi questo già dà l'idea di qualcuno che ha studiato, anche perché il suo consigliere economico, e per quello forse che non mi hanno chiamato, perché ce n'è uno già molto bravo, Jean Pisani Ferri. Ma perché lei è venuto via da Parigi e adesso mi sta a Bologna, quindi non era neanche disponibile. Ma magari mi chiamerà qualcuno da Roma, magari. Ma nel frattempo diciamo che il programma economico è estremamente realista. C'è una grossa attenzione alla lotta contro la disoccupazione, sì, che in Francia è altrettanto grave come problema che in Italia, soprattutto perché incide particolarmente sui giovani e sulle donne, su coloro che sono disoccupati da molto tempo. Pensa quindi ad una riforma delle pensioni che semplifichi anche tutte le casse già esistenti, insomma anche questo è un tema molto interessante. Assolutamente, ci sono 38 regimi speciali in Francia, l'idea di Macron è di razionalizzare questo sistema pensionistico, l'idea poi da quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione è di passare dalla gestione paritaria di sindacati e imprenditori, associazioni di categoria, a quella invece di nazionalizzare. Il modello è quello della Scandinavia, la Scandinavia mitica che anche Giscard d'Estaing negli anni 70 voleva importare in Francia, non c'è riuscito lui, non c'è riuscito neanche François Hollande, magari ce la farà Macron, anche se la Scandinavia nel frattempo ha smesso forse di essere quell'Eldorado che era per i riformisti di tutta Europa. La sfida è grande, soprattutto perché tutto questo avviene in un contesto che conosciamo molto bene di timore di un ritorno del protezionismo un po' ovunque, sì, e da questo punto di vista è rassicurante che il programma economico di Macron sia di nuovo realista, quindi veda i vantaggi della globalizzazione ma anche i suoi limiti quando questo non venisse ben gestita. Sì, tra l'altro noi stiamo commentando in lungo e in largo tutto quello che potrà accadere qualora fosse Macron la scelta su cui cadrà il 7 maggio per queste presidenziali, lo immaginiamo già lì seduto all'Eliseo, della signora Le Pen non stiamo neanche parlando, ma insomma se si dovesse verificare un'altra condizione di forte sorpresa come quella del 24 giugno dello scorso anno, come quella di novembre dello scorso anno, da una parte nel Regno Unito, da una parte negli Stati Uniti, lo scongiuriamo del tutto questa ipotesi, Goldstein? Ma diciamo che c'è un grosso rischio che è quello dell'astensionismo, sia per motivi semplicemente profondamente politici, cioè il fatto che Macron non riesca a convincere, sia perché potrebbe installarsi una certa aspettativa che tutto comunque è giocato e quindi non c'è bisogno di andare a votare. Non dimentichiamoci che l'8 maggio è un lunedì e i francesi sono molto attenti ai ponti e quindi il fatto che ci sia un lungo ponte a disposizione potrebbe indurre molti a non andare a votare, quindi un rischio esiste. Detto questo, mi sembra che i sondaggi, per quanto in altri contesti geografici e politici, si siano dimostrati errati, nel caso francese erano precisi quasi al decimo di percentuale, quindi direi che il fatto che il grosso interrogativo in realtà secondo me è se Macron supererà la soglia del 60%, sì, che è simbolicamente molto importante, non dimenticandoci che comunque Chirac 15 anni fa era arrivato all'82%, quindi ormai consideriamo già un successo arrivare al 60% quando 15 anni fa il Fronte Nazionale non arrivava al 20%, certo, al secondo turno. Gli endorsement non gli mancano, poco fa è arrivato anche quello di Hollande. Un'ultima 30 secondi, un ultimo commento, Goldstein, sulla reazione ai mercati finanziari che abbiamo visto oggi. È giustificata? È troppo euforica? Oppure siamo andati di ricopertura rispetto a un po' di incertezza che c'era stata nelle ultime settimane? Io adesso su questo tema vado con uno specialista di mercati finanziari, ma chiedo anche a lei che cosa ne pensa. In parte sicuramente è un effetto di copertura, in parte è comunque un momento buono per l'economia mondiale, quella europea in particolare, quindi sì, quando si scongiurano i rischi e si ritorna a una situazione che comunque è positiva è un elemento ovviamente di sicurezza. E infine c'è un elemento, c'è una certa ottimismo sul fatto che una Francia più riformista sia poi capace di crescere di più e di andare al tavolo delle trattative con i tedeschi in una posizione più di forza. E poi tanto sappiamo cosa fanno gli operatori dei mercati finanziari, domattina sono pronti a rivendere tutto quanto nella stessa misura in cui oggi hanno incassato qualche profitto, anzi domani magari possono portare subito a casa qualche risultato rispetto a quelli appunto registrati oggi. Grazie ad Andrea Goldstein, Nomisma Managing Director, buona giornata. Buona serata. Buona giornata a voi. È tardissimo, abbiamo il traffico, poi naturalmente a proposito di mercati finanziari andremo a raccontarvi quello che è successo oggi nel dettaglio. Che cos'è che ho detto, Roberta? Il traffico, no, adesso c'è il meteo, ma lo sai che sono disabituata a condurre questo programma, mi devo resettare completamente. A tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Focus Economia. Allora, eccoci di nuovo in diretta, sono quasi le 17.40 ed è tempo di raccontarvi la giornata di borsa con il focus di quest'ora che naturalmente è sempre particolarmente concentrato su Piazza Affari, una Piazza Affari che grazie all'effetto Macron, lo dico alla francese ma mi viene malissimo, quindi me la tengo normale, Macron, si riporta ai livelli di inizio 2016, quindi riporta le lancette dell'orologio indietro di oltre un anno. Siamo, per quello che riguarda il principale paniere di Piazza Affari, il FTSE MIB a 20.684 punti, livelli che non si vedevano proprio dall'inizio del gennaio del 2016. Bene, le banche, guadagni a due cifre per due big, spread in discesa nettissima, molto bene tutte le piazze europee, e questo è il tema che naturalmente affrontiamo adesso con il collega di Radio Cora Il Sole 24 Ore, Ceo Condina, che saluto. Buonasera Ceo. Buonasera a tutti, ciao. Allora, stamattina così ne parlavo anche con un gestore che abbiamo intervistato a Cuore Denari, proprio per commentare l'apertura della seduta di borsa che era già all'insegna dei migliori auspici, quindi forti rialzi, investitori che stamattina si sono affrettati a ricoprirsi di tutte quelle posizioni che avevano nell'incertezza abbandonato negli ultimi giorni. Ma ci chiediamo, questa Unicredit che fa più 13%, questa UbiBanca che fa più 10%, sono esattamente le banche che erano state, come dire, colpite dalle vendite in tempi più recenti? Unicredit è la stessa banca che ha fatto un aumento di capitale gigantesco per coprire delle perdite molto significative, eppure basta l'effetto di un'elezione francese, peraltro al primo turno, per portare tutti gli investitori su queste ricoperture così massicce. Cioè, o che dicono gli operatori che avete interpellato oggi? Bah, diciamo che insomma oggi queste, insomma, gli acquisti sul settore bancario hanno riguardato un po' tutte le banche europee, anche a Parigi, dove ricordiamo il listino ha toccato i massimi dal 2008, sono state quindi loro anche più indietro, ben comprate anche lì tutti gli istituti di credito. Qual è il senso? Il senso è che sostanzialmente la vittoria di Macron indirizza un po' la strada di quello che potrebbe essere lo sviluppo del sistema finanziario di Eurolandia verso la stabilità, quindi non diminuiscono i rischi per la stabilità del sistema finanziario europeo, quindi nessuna istanza antieuropeista, e quindi le prime a beneficiare sono sicuramente le banche. Che beneficiano anche della riduzione degli spread di casa propria, sia il nostro che naturalmente il nostro, la caduta violenta dello spread nostro ne fa beneficiare le banche italiane, così come quello francese. Allora guarda, già che ci siamo, do anche i titoli delle banche francesi. Il Crédit Agricole fa più 10%, Société Générale più 9,88%, BNP Paribas più 7,34%. Oggi abbiamo avuto lo stacco del dividendo di 7 gruppi quotati appunto sulle FTSE MIB, uno stacco che pesa per lo 0,5% il valore del listino, e peraltro se consideriamo questo addirittura Milano chiuderebbe a più 5, abbondante direi. Ceo, no, scusami, qui ti devo correggere. È già rettificato. Quindi 4,78. Il valore dei singoli, diciamo la performance dei singoli titoli, non è rettificata, quindi infatti non è un caso che per esempio Eni, Banca Mediolanum, Unifineco, Ferrari siano tra i titoli meno brillanti, tutto perché appunto non è computato lo stacco della cedola dalla loro performance. Ottimo, grazie allora per avercelo ricordato. Ricordo tutte le società che staccano oggi: Eni, Banca Mediolanum, come ci dicevi, Finecobank, Ferrari, Prismian, CNH Industrial e Recordati, mi pare di averle detto tutte. C'è un report positivo che invece riguarda oggi Enel, e quindi senza effetto Macron Enel va per conto suo e brilla comunque a Milano. Sì, perché a parte Exor che ha fatto più 6,3, Enel è la non banca che è il miglior titolo del FTSE MIB, fa più 6,25%. C'è questo report che tu citavi di Credit Suisse, che al di là del fatto che consiglia di acquistare il titolo, aumenta il prezzo obiettivo, quindi il prezzo secondo il quale Credit Suisse potrebbe insomma arrivare il titolo di Enel, cita due elementi che potrebbero appunto favorire l'azienda. Il primo è il fatto che rispetto ai competitor competitor, cioè altri gruppi energetici europei in borsa, è sottovalutato. Il secondo è che in occasione dell'approvazione della semestrale, che è fissata per il 27 luglio, secondo Credit Suisse Enel potrebbe rivedere al rialzo i target del piano industriale. Questo sicuramente è un elemento importante. Allora, ascoltatore si lamenta del fatto, ma gli indici non li date 3 volte e adesso li ridaremo. Allora, per chi ha perso e ha mancato l'appuntamento prima, riparto dalla protagonista della giornata che è Parigi, più 4,14%, Francoforte più 3,37%, Londra più 2,12%. Da questa piattaforma qui in studio non vedo Madrid, che comunque in rialzo credo intorno ai 3,5%, Milano più 4,78% sul FTSE MIB a 20.684 punti, ai massimi dall'inizio del gennaio del 2016. Oggi hanno avuto un atteggiamento un po' più incerto i titoli del LUS, è stato un po' debole rispetto agli altri, ma era comunque positivo per esempio Salvatore Ferragamo, che però ha avuto una fiammatina finale e registra quasi 4 punti percentuali. Ci sono state delle notizie sui titoli del settore? Diciamo che Moncler è stato molto più debole, ha guadagnato soltanto tra virgolette lo 0,6%. Qui c'è il tema del cosiddetto patent box, cioè delle recenti agevolazioni fiscali che sono state concesse, introdotte a vantaggio delle aziende del lusso, che sostanzialmente escludono, diciamo, i proventi dei marchi dalla tassazione, quindi chiaramente sono delle agevolazioni. Un regime fiscale agevolato sulla presentazione di brevetti e quant'altro, ecco, una cosa del genere, molto complicato da spiegare. Sì. Però sostanzialmente diciamo che favoriscono marchi prestigiosi, appunto, come quelli del lusso. Ecco. Ma tra l'altro non credo che neanche anche tante società abbiano beneficiato di questo regime fiscale. Credo che per quello che riguarda Piazza Affari siano solo Salvatore Ferragamo e Toz, se non ricordo credo male. Credo che ci sia anche Moncler. Sì, è vero, esatto. E sostanzialmente però qui qui ancora il condizionale è d'obbligo, però l'Italia forse si dovrebbe allineare ai principi europei e quindi escludere i marchi dalla detassazione dei redditi. Chiaramente questa prospettiva per queste aziende è un po' penalizzante, anche se comunque è una questione che dovrebbe sorgere dal 2020 in poi. Però, 20 secondi CEO per aggiornarmi sulla partita Atlantia-Abertis. Si fa o non si fa questo deal, questo matrimonio, questa integrazione? Insomma, ci sono delle novità nelle trattative? Beh, diciamo di sicuro ci stanno lavorando, c'è tanto da fare, capire se sarà un'offerta cash, un'offerta azioni, quanto verranno valorizzate le singole aziende, la futura governance. Oggi il dato di fatto è che Atlantia comunque dopo i passi falsi degli ultimi giorni ha guadagnato un 4,3%, quindi insomma comunque gli operatori, da quello che sembra di capire, scommettono su una buona riuscita dell'operazione. Ceo, grazie per essere grazie stato con noi, buona serata. Faccio una veloce lista della spesa sui titoli di cui non ho aggiornato in termini percentuali. Oltre alle regine della seduta, Unicredit più 13, Ubibanca più 10, hanno guadagnato molto bene. Banco BPM più 7,71, Intesa San Paolo più 7,48, BPR Banca più 6,89, Exor più 6,35, Banca Generali più 6,30, Enel più 6,25, Unipol più 5,36, Mediaset più 5,29, Mediobanca più 5,17. Mi fermo qua, non c'è nessun titolo negativo oggi a Milano. Quelli che hanno guadagnato meno: Tenaris più 0,07, Eni aveva il dividendo più 0,14, Moncler più 0,60, Banca Mediolanum aveva il dividendo più 1,31%, pur il dividendo è pesato su Ferrari e Fineco, benché che tuttavia chiudono con un rialzo di 1,5%. Il traffico e poi ancora più nel dettaglio di questa giornata finanziaria. Focus Economia. Allora, saranno le ricoperture? Sarà che nei giorni scorsi, insomma, la variabile politica era stata un po' quella minaccia che aveva portato tutti gli investitori di tutto il mondo ad esprimere delle posizioni di cautela sul mercato azionario europeo, e dell'Europa non si guardavano neanche ai fondamentali economici, che pur essendo abbastanza convincenti da molte parti, in realtà non erano sufficienti appunto a mantenere le posizioni degli investitori in quest'area. E invece che cosa è successo? È bastato stato il primo turno delle presidenziali francesi oggi per riportare tutti da questa parte dell'oceano. Se guardiamo agli americani, naturalmente anche stamattina consideravamo con il gestore che citavo prima che proprio gli americani stanno riportandosi prepotentemente sull'equity europeo, un po' perché a Wall Street forse non c'è più nulla da comprare visto che già viaggia sui massimi da tempo, pur con qualche giornata di assestamento. Insomma, poi qua a quanto pare anche il tema politico si è raffreddato, ma basta il primo turno delle presidenziali per rassicurare così tanto? Lo chiediamo ad Alberto Gallo, responsabile delle strategie portfolio manager di Algebris, che è il fondo di investimento fondato da Davide Serra. Lo racconto, Gallo, non perché lei naturalmente sia meno importante di Serra, ma solamente perché ricordando Davide Serra tutti ricordano anche la società della quale parliamo. Buonasera intanto, grazie. Salve. Allora, senta, come la dobbiamo commentare questa euforia di questa giornata? Non avrete un po' esagerato a comprare tutto oggi? Beh, diciamo che non è soltanto il primo turno delle elezioni francesi, è un punto di svolta per l'Europa, perché abbiamo tre eventi. Prima di tutto, il populismo in Europa non sta vincendo. Gli euroscettici di oltremanica nel Regno Unito o anche in America speravano che vincesse Podemos in Spagna l'anno scorso, speravano che vincesse Hofer in Austria, poi hanno sperato per Geert Wilders in Olanda e adesso hanno sperato per Le Pen in Francia e hanno sbagliato tutte queste volte. Lo scenario in cui l'Europa si rompe e il Regno Unito ne va a beneficiare, diventa una specie di rifugio, non si avvera. Quindi l'euroscetticismo e il populismo in Europa non stanno vincendo. Possiamo capire bene perché, perché noi abbiamo meno disuguaglianza, abbiamo una società che comunque ha una ripresa, certo zoppicante, ma comunque dove rispetto al Regno Unito e all'America i poveri hanno degli ammortizzatori. Numero due è che Macron è pro-Europa e Macron potrebbe fare delle riforme in Francia. E il numero tre, che è una cosa ancora più importante, ma forse non si è ancora capita, è che se vince Merkel in Germania con però l'opposizione di Schulz che guadagna, quindi non Schäuble, il re dell'austerità, ma Schulz che è dei social democrats, quindi più pro-Europa, più pro-welfare, insieme a Merkel e poi Macron in Francia, può creare una alleanza pro-europea molto forte. Quindi, diciamo, ecco, Macron ha aperto, insomma, questo scenario. Detto questo, anche lei chiede un commento rispetto a quello che consideravo prima con il nostro collega appunto dell'agenzia di stampa del Sole 24 Ore. Il fatto che siano le banche francesi a volare ci sta, naturalmente avevano sofferto e oggi le ricoperture appunto su questo comparto, sul territorio transalpino, tra gli operatori ci sta anche. Questo effetto così forte invece sul sistema bancario, per esempio anche italiano, è giustificabile secondo lei? Lo dobbiamo ricondurre tutto al calo vistoso degli spread che alleggerisce anche il peso in bilancio dei titoli di Stato che le banche hanno appunto in portafoglio? Il settore finanziario è comunque visto dagli operatori come una cosa molto correlata. Se le banche francesi hanno un problema, ovviamente ci sono delle connessioni con le banche italiane, con le banche spagnole. Quindi in uno scenario di rottura dell'Europa, gli investitori hanno innanzitutto sono stati alla larga da tutte le banche europee, quindi sono sottoinvestiti e hanno anche comprato della protezione, hanno comprato delle opzioni oppure sull'equity per proteggersi da un pericolo che poi era diventata una paura estremamente esagerata, come noi abbiamo scritto. Quindi le banche italiane o comunque tutte le banche europee stanno facendo molto bene oggi. Detto questo, però, le riforme, come sappiamo, in Italia sono abbastanza lente e quindi già vediamo su alcuni su alcuni giornali la prossima preoccupazione degli euroscettici probabilmente sarà l'Italia, forse anche ingiustificatamente, perché comunque nel breve termine non ci sono degli eventi politici rischiosi, esatto. Però le riforme continuano a essere troppo lente. Infatti, senta, l'euro l'euro ha beneficiato già ieri sera dal primo sentore che si aveva rispetto al risultato elettorale che si andava configurando, addirittura rispetto alla chiusura di venerdì era 1,06 poco sopra, è volato a 1,09 facendo, come si dice in gergo finanziario, ben tre figure, circostanza che non si vedeva insomma da un po'. In termini di movimento valutario. Cosa ci dobbiamo aspettare, insomma, anche da questo punto di vista? È sempre interessante valutare il rapporto di cambio tra la nostra moneta e soprattutto nei confronti del biglietto verde, che è particolarmente forte anche alla luce di tutte le promesse fatte da Trump. Ci fa un po' un punto della situazione da questo punto di vista, che è un tema sempre molto interessante per i nostri ascoltatori, a giudicare anche dalle domande che ci fanno. Sì, nei mercati europei ci sono quattro tipi di asset, quattro cose che sono state un po' odiate dagli investitori. Le azioni si sono già mosse, come abbiamo detto prima, l'euro si è mosso ma ha ancora più spazio, secondo noi arriverà intorno a 1.15 contro il dollaro rispetto adesso a 1.08. Le altre due cose sono questo in tempi brevi, sì. Secondo lei addirittura? No, entro fine anno, ecco. Però il momento cruciale per l'euro sarà un cambiamento di bordo da parte della Banca Centrale Europea, dove Draghi e anche i suoi colleghi del Consiglio hanno reiterato la loro attitudine molto espansiva sulla politica monetaria. In realtà però i dati macroeconomici sono positivi e quindi a un certo punto dovranno guardare a togliere questo tasso di deposito negativo, certo, oppure a ridurre gli acquisti di obbligazioni, e quindi questo cambiamento potrebbe spingere l'euro sopra 1.10 contro il dollaro. Noi ci aspettiamo che un cambiamento nella forward guidance, quindi nelle aspettative della Banca Centrale Europea, dovrebbe avvenire verso metà anno, forse prima dell'estate. Quindi l'euro ha ancora spazio per andare su, le azioni hanno fatto un movimento molto forte. L'altra cosa che ha spazio sono le obbligazioni della Germania, che ora sono a rendimenti negativi, dovrebbero anche quelle normalizzarsi, quindi scendere come prezzo e alzarsi come rendimento. Abbiamo il Bund a 10 anni che è ancora a 0,33%, quindi a 10 anni e nel breve termine ha un rendimento molto negativo, quindi non si sa perché ancora gli investitori stanno comprando queste obbligazioni a rendimento negativo. Fra un po' la tentazione di andare in degli asset che invece hanno dei rendimenti positivi dovrebbe essere ancora più forte, poiché l'inflazione sta salendo e il rischio di rottura dell'Europa sta svanendo. Insomma, è una soluzione in piena evoluzione. Detto questo, quello che vediamo oggi è veramente un entusiasmo alle stelle. Mi pare che sia abbastanza evidente il personaggio francese per cui il mercato fa il tifo, se si può dire così. Gallo, che cosa dice? Oppure voi generalmente non fate il tifo e guardate in ogni caso ad altri aspetti? Noi in realtà abbiamo visto che la variabile politica la guardate e come? La variabile politica è importante per capire i mercati, forse più importante della variabile economica, quindi bisogna capirla. Poi se c'è la possibilità di esprimere la nostra opinione per spiegare quali sono i rischi del populismo, come abbiamo fatto nel caso del Regno Unito, lo facciamo volentieri, non sempre veniamo ascoltati. Certo. E che non significa prendere una posizione, ma come dire, costruire degli scenari, fare anche delle simulazioni, che è il vostro lavoro quotidiano, no? Così, certo. Giusto? Ecco. Gallo, in questo caso ha fatto la scelta, finora ha fatto la scelta giusta. Ecco qua, grazie ad Alberto Gallo al Gebris per essere stato con noi, responsabile strategie e portfolio manager. Noi ci fermiamo perché adesso è tempo di andare ad ascoltare il giornale radio, poi lasceremo tutto l'ambaradan del giorno dei mercati finanziari, farò più tardi un nuovo riepilogo della situazione, ma parleremo di manovrina di primavera, di Alitalia ed altro ancora a tra poco. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti siamo convocati. Una squadra fortissimi. Focus Economia. Non ci ho più l'età per la disco music, ragazzi. Qua le canzoni le dovete un attimo rendere un po' più morbide per questa vecchia conduttrice. Oggi al timone di Focus Economia, ancora buonasera da Deborah Rosciani. Allora, la prima ora di tempo l'abbiamo dedicata naturalmente all'analisi del voto francese, primo turno delle presidenziali. Andranno al ballottaggio il 7 maggio Emmanuel Macron e Jean-Marie Le Pen, lo sapete, l'abbiamo già detto, abbiamo parlato a lungo delle implicazioni politiche, di quelle finanziarie anche abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata, e la borsa oggi parla chiaro. Più 4,14% per Parigi, Francoforte chiude con un rialzo del 3,37%, Londra più 2,11%, Milano più 4,78%, pur con lo stacco del dividendo di 7 società importanti. I migliori titoli, i bancari, addirittura 2, chiudono con un rialzo a doppia cifra, Unicredit più 13%, Ubibanca più 10,36%, l'euro è volato a 1,0848 sul dollaro, ha toccato anche livelli più sostenuti, la moneta unica europea nei confronti di tutte le altre divise internazionali, e poi c'è stata questa caduta verticale dello spread tra l'UAT francese e il Bund, come era inevitabile aspettarsi, ma anche fra il BTP decennale, fra il titolo appunto decennale italiano, fra il BTP di casa nostra e il Bund tedesco. Siamo a 182 punti base, questo a dispetto del dispetto che ci ha fatto Fitch venerdì, che ha abbassato il rating del nostro paese. Il giudizio sul debito sovrano italiano passa a BBB da BBB+, pur avendoci confermato un outlook stabile. Cosa ha detto Fitch? Che naturalmente questo è un paese che ha ancora una crescita troppo debole, c'è un ritardo nel consolidamento dei conti, ha sottolineato Fitch il fallimento sul fronte della riduzione dell'elevatissimo livello del debito pubblico, circostanza che espone maggiormente il paese a potenziali shock sfavorevoli. Mi chiedo, Gianni Trovati, il Sole 24 Ore, buonasera, se Mattarella avesse firmato la finanziaria di primavera un po' prima, Fitch, secondo te, ci avrebbe bastonato lo stesso oppure no? Ma direi di sì, perché tanto questi giudizi... Buonasera a tutti. Anzitutto direi che per il livello di analisi di Fitch, la firma del capo dello Stato, ma per di più la manovrina, è sostanzialmente irrilevante, nel senso che la manovrina corregge 2 decimali di PIL, come ci ha chiesto l'Unione Europea per non sforare gli obiettivi di deficit che avevamo spuntato dopo lunga partita con Bruxelles, ma non cambia le dinamiche del debito, che è troppo grande per essere anche solo sfiorato da una manovrina di questo tipo. Infatti, intanto portiamoci a casa il beneficio parziale di oggi dello spread che è sceso e che ci permette appunto di pagare meno spesa sugli interessi, magari si consolidasse così a lungo tempo, anche se effettivamente abbiamo visto nel passato recente anche livelli molto più rassicuranti. Detto questo, Gianni, ci ricordi ancora quali sono le caratteristiche di questa finanziaria di primavera su cui oggi ha messo la firma il presidente Mattarella, che sterilizza le clausole di salvaguardia, praticamente in particolar modo l'aumento dell'IVA sia sui beni di largo consumo che quella ordinaria. In realtà gli aumenti ci saranno, ma saranno meno drastici, più graduali, quindi meno pesanti anche per la platea dei consumatori. Sì, diciamo che la prima caratteristica è che finalmente il testo ha trovato pace, nel senso che è stato approvato nel Consiglio dei Ministri l'11 di aprile, oggi è il 24 e finalmente insomma siamo arrivati alla fine. La cosa più importante è che appunto comincia, per l'effetto strutturale che avrà sui conti del 2018 in avanti, comincia a frenare gli aumenti IVA, che se no sappiamo scatterebbero di 3 punti sia sull'aliquota del 10 sia sull'aliquota del 22 a partire dal 1 gennaio. Per far questo mette nel mirino in particolare la cosiddetta lotta all'evasione dell'IVA con lo split payment, che è una roba che le persone normali ignorano, ma che i fornitori della pubblica amministrazione, da domani anche tutti i professionisti, dovranno cominciare a conoscere, perché di fatto le loro forniture verranno pagate al netto dell'IVA, perché l'IVA viene girata direttamente all'erario. questo cancella sul nascere ogni tentazione di evasione. È anche una semplificazione, anche immagino, per i fornitori della pubblica amministrazione, no? Sì, insomma, avere dei soldi in tasca invece che non averli è sempre peggio. Vabbè. Sottrae liquidità al meccanismo dell'IVA e sottrae liquidità ai fornitori, in cambio lo Stato dovrebbe assicurare che i rimborsi IVA che lo Stato deve ai contribuenti arrivino effettivamente nei tempi di legge, tempi che sono scritti nella legge ma che spesso vengono superati abbondantemente nella realtà, trasformando le imprese e appunto da domani anche i professionisti in prestatori netti di soldi allo Stato. Senti, una cosa patriottica ma non voluta. Senti Gianni, prima di andare agli altri punti della manovrina, dopo la firma di Mattarella, quali altri passaggi deve fare questo provvedimento? E il passaggio chiave è che adesso arriva in Parlamento per essere convertito in legge, ma essendo, diciamo così, con molta probabilità uno degli ultimi treni normativi utili prima della manovra o prima del voto, perché le tentazioni elettorali sono sempre in campo, ci sarà quello che con espressione diciamo gergale si chiama salto alla dirigenza, cioè chiunque, qualunque parlamentare cercherà di far salire sul treno del decreto le normative più disparate. Tant'è vero per che ottenere consenso, questa roba qui l'ha fatta il governo. Infatti. L'assalto alla dirigenza, curiosamente, l'ha fatto allo stesso governo, perché la manovrina correttiva, che doveva essere un decreto molto esile, si è trasformato in un omnibus di 68 articoli. Allora, il testo dovrebbe essere pubblicato intanto in Gazzetta Ufficiale domani. Dacci gli altri punti qualificanti di questo provvedimento, quelli che avranno magari ricadute concrete più immediate fra i cittadini, Gianni. La ricaduta concreta più immediata è la rottamazione delle liti delle pendenti. Cioè abbiamo rottamato le cartelle col decreto fiscale di Natale, ma se uno è in contenzioso, cioè davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale e sta battagliando col fisco, può decidere di chiudere la partita pagando l'imposta accertata e non pagando gli interessi e le sanzioni. Una opzione che naturalmente è utile per chi ha torto o teme di avere torto, mentre chi è convinto di avere ragione probabilmente continuerà a battagliare in giudizio. E poi c'è un po' di spending review che non manca mai, circa 600 milioni di tagli ai budget ministeriali di quest'anno, quindi una spending da fare a stretto giro nei prossimi mesi proprio per rispettare i parametri di deficit imposti dall'Europa. E questo è anche il provvedimento dove c'è la famosa iniziativa per la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico, no? Le sanzioni proprio per i furbetti del biglietto. Come se oggi si potesse tranquillamente andare in pullman senza biglietto. Diciamo che le sanzioni vengono aumentate e proprio perché si è trasformato in un omnibus, il governo ha imbarcato sul decreto un pezzo di riforma del trasporto pubblico locale che avrebbe dovuto fare con decreto legislativo, ma per varie vicende non è riuscito a fare. La norma manifesto sono i 200 euro per i portoghesi, cioè per chi sale in pullman senza biglietto viene beccato, ma c'è anche una riforma del finanziamento del trasporto pubblico. Si promettono costi standard e incentivi a chi vince le gare invece di ottenere l'affidamento in house dal comune. Senti, dopo la pausa io devo collegarmi con Gianni Dragoni che ci fa il punto della giornata delicatissima per Alitalia, e credo che in questo provvedimento ci sia anche la misura pro Alitalia, così è stata ribattezzata quantomeno dal Sole 24 Ore, no? Perché il Ministero dell'Economia è autorizzato a deliberare e a varare un aumento di capitale di Invitalia. Con che obiettivo, destinato appunto eventualmente ad intervenire su Alitalia, e che cos'è Invitalia, ricordiamolo Gianni? Invitalia è una società del MEF che ha come missione istituzionale quello di investire in aziende, soprattutto in aziende nuove e innovative. Alitalia non è esattamente né nuova né innovativa. No, proprio una startup, ecco, non è infatti una novità di questi giorni. Tuttavia, insomma, l'obiettivo è quello di autorizzare una garanzia di 300 milioni a copertura di un pezzo dell'aumento di capitale. Che è di 2 miliardi, ricordiamo. Che è di 2 miliardi. Se però i lavoratori di Alitalia, che hanno votato fino a oggi, bocceranno l'ipotesi, è probabile, anzi è pressoché certo, che questa bocciatura travolgerebbe anche la garanzia. Allora, lo sapremo nelle prossime ore. Intanto vediamo tra un po', dopo la nostra pausa, se Gianni Dragoni ha informazioni di prima, se ha degli exit poll rispetto al referendum di Alitalia, per il destino di Alitalia. È una giornata, noi ci scherziamo, ma parlo con il pieno rispetto per i lavoratori che vivono per l'ennesima volta, quelli che magari hanno un'esperienza di più lunga data appunto con questa compagnia, una situazione di questo tipo. Intanto grazie a Gianni Trovati, ci fermiamo, adesso c'è il traffico, il meteo, il traffico, Roberta, il traffico. Focus Economia. Allora, un paio di precisazioni. Sì, effettivamente, dopo averla citata un milione di volte, Marine Le Pen, l'ho chiamata Jean-Marie Le Pen, praticamente ho messo insieme un po' il nome anche del padre. Detto questo, siete attentissimi, non me ne passate una, così come un ascoltatore. Visto che anche Sebastiano si diverte sempre a leggere i vostri messaggi, soprattutto quelli particolarmente pesanti, un ascoltatore mi dice che sono un ignorante progressista cialtrona, perché dice: dove sta scritto che vincerà Macron? Proprio da nessuna parte. Infatti ho detto più volte attenzione a tutto questo entusiasmo di questa giornata anche sui mercati, perché anche con Brexit e Trump ci siamo addormentati con un'idea in testa, ci siamo svegliati con tutt'altra situazione. Per cui, detto questo, per quello che riguarda Macron, abbiamo fatto solamente con i nostri interlocutori della prima parte della trasmissione qualche gioco di endorsement, appoggi che ha già ricevuto Macron, e dove andranno quei voti appunto che ieri sera sono stati dirottati verso quei candidati che non hanno avuto la meglio in questa prima parte della competizione per le presidenziali francesi. Quindi questo è quanto, ma nessuno ha detto niente. Io aspetterei proprio di vedere l'8 maggio il risultato finale. Detto questo, andiamo invece ad un'altra iniziativa di carattere elettorale, paradossalmente, il referendum per il destino di Alitalia. 12.500 dipendenti chiamati ad esprimersi su l'accordo siglato dai sindacati per il piano di salvataggio e rilancio della compagnia, seggi chiusi alle 16 e lavoratori chiamati ad esprimersi, come vi dicevo, verso questo piano, che è di nuovo molto duro perché prevede un taglio dell'8% delle retribuzioni del personale di volo, oltre alla riduzione dei riposi annuali da 120 a 108 giornate per il personale di terra, previsti 980 esuberi, il tutto per poter avere il via libera per questo piano di ricapitalizzazione da 2 miliardi. Gianni Dragoni, Il Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera, ciao. Hai degli exit poll a proposito di questo referendum? È troppo presto per dire. Peraltro, come hanno votato i lavoratori? Sai che me lo sono chiesto oggi e non ho trovato la modalità. Hanno votato, non lo so, credo con delle schede, però non ce lo siamo chiesto, esatto, poi andremo a curiosare. Guarda, ho ricevuto degli exit poll su WhatsApp e ho visto un foglio quadretti con scritto a mano, e da Linate una prima indicazione, certamente molto parziale, dove gli aventi diritto al voto sono 1019, hanno votato 859. E i no sono 692, quindi 692 su 859, quindi una percentuale superiore, direi, all'80% di no. Quindi 1000 su 1020 diritto vuol dire il 10% del personale. E da Fiumicino ho avuto una prima indicazione, chiaramente sono informazioni ufficiose, un primo lotto di personale di volo. Nel personale di volo i no sono maggiori, più alti, perché sono i dipendenti che subiscono il taglio maggiore dello stipendio. E anche qui questa prima indicazione, 675 no, 77 sì, però siamo quindi ormai a 2000 votanti in questo modo, quindi sono ancora indicazioni parziali. Sarà personale di terra che è più numeroso che potrebbe cambiare queste cifre, anche se nel personale di terra pure le discrezioni di questi giorni davano un orientamento anche sul no superiore a quello che i sindacati si aspettavano, e questo spiega anche perché c'è stato questo appello crescente anche del premier Gentiloni, sì, a votare. No, pure Del Rio ha detto, insomma, guardate che non vi nazionalizziamo, per cui fate una scelta, tra virgolette, come dire, responsabile, che ci consente di portare avanti questo accordo. Ma a questo punto lo scenario che si apre, Gianni, pur essendo, come dire, una indicazione che hai tu del tutto informale, non ufficiale, però mi pare abbastanza preoccupante a questo punto. Sì, indicazione informale e anche parziale, quindi ci potrebbe essere, magari perché le categorie di voto non sono omogenee come in altre situazioni. Allora, intanto sì, la situazione è preoccupante. Io mi sento di dire comunque che è preoccupante comunque per questa ragione. Vabbè, intanto il taglio degli stipendi nel personale di volo è più alto della media che è stata indicata dell'8%. Sì, arriva al 20% e certe categorie, perché ci sono certe indennità, gli assistenti di volo che ci sono da più tempo, può arrivare anche al 25%, qualcuno parla del 30%, però l'8% è il personale di terra. Ma il problema di fondo, quello su cui io credo non ci sia stata una riflessione sufficiente né corretta, è che tutto questo intervento di taglio del costo del lavoro, che porta molti stipendi dell'Alitalia, dei naviganti, a livello di low cost tedesche, questa è l'aria che tira all'interno della compagnia, ma è vero, perché dei tagli ce n'erano già stati al costo del lavoro. È basato su un piano industriale che tutti sanno che non regge, perché lo sanno le banche e lo sa anche il governo, altrimenti non ci sarebbe stata questa garanzia pubblica, che in realtà è una quasi certezza tra pochi mesi, di dover mettere fino a 300 milioni di denaro pubblico, perché ci saranno delle perdite che i soci italiani, cioè le due grandi banche, Unicredit e Intesa, hanno già detto: se ci sono dei rischi noi non li copriamo, ma i rischi sono perdite quasi certe, perché il piano prevede un forte aumento di ricavi, 30% in 3 anni, per una compagnia che i ricavi non li sta aumentando da anni, anzi sono in calo, ma con una riduzione di 20 aeroplani, quindi è quasi impossibile pensare, dovrebbe esserci un forte aumento di tariffe, ma anche di viaggiatori, per aumentare i ricavi in questa situazione. Quindi il piano, io l'ho scritto più volte, anche solo 24 ore, non è la prima volta che lo dico, è un piano in cui diciamo che tutti sanno che, diciamo, li chiamano alti rischi, ma diciamo che non può funzionare, tant'è che lo stesso Gubitosi, presidente designato ma non ancora presidente, sta già parlando di fare un altro piano. Ma fare un altro piano con più aerei, più lungo raggio, vorrebbe dire anche avere i capitali per poterlo finanziare. Tra l'altro parte proprio a breve la nuova tratta indiana, mi pare. Quella su Dunque, Delhi. Gubitosi ha annunciato il ritorno dell'Alitalia sulle Maldive da novembre, mi pare, è stato poi annunciato. Non credo che sia questa comunque la rotta che può cambiare in termini di volume di passeggeri. Certamente diciamo, non può cambiare il volto a un conto economico così debole. Certo, Gianni, senti, a prescindere da questo pizzino telematico che hai tu su WhatsApp, auspicabilmente entro quanto conosceremo i risultati del referendum? I seggi si sono chiusi alle 16. Sì, però hanno cominciato alle 5, hanno spostato le 1 al centro addestramento, ma a giudicare da come stanno andando, io credo che vogliano anche tutti quanti sapere al più presto possibile. Penso che ci sarà, ma non saprei dire, ma io credo che in poche ore, forse penso che entro un paio d'ore si possa sapere. Ti consentiranno di scrivere per domattina, insomma, un pezzo del tagliato. La preoccupazione direi che c'è anche nel governo, perché Gentiloni riunito con i ministri a Palazzo Chigi per l'Italia sembra quasi un centro, una sala della protezione civile quando c'è un'emergenza. Una situation room, esatto. Diciamo un'aria, diciamo, di una certa negatività. Gianni, grazie per essere stato con noi. Io ti lascio, tanto penso che domani avremo da commentare qualcosa di molto più concreto rispetto a quello che possiamo ipotizzare solo fino a questo momento e che non lascia presagire niente di particolarmente positivo. Focus Economia con me termina qui. Grazie a Mauro Del Corno in assistenza, a Roberta Frisani in assistenza tecnica. Io torno domani regolarmente a Cuore Denari, anche se festa noi ci siamo. Ci sarà anche Focus Economia domani sera con Simone Spezzi. A tutti una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.